24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qua, le 7 e 30 minuti, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9, 24 mattino. E vi preannuncio che oggi il sondaggio è dedicato a Piero Marrazzo. Torniamo a occuparci dell'ex governatore del Lazio, coinvolto nello scandalo, come sapete, con i transessuali, e che è pronto a tornare in TV, è pronto a tornare alla RAI, il suo vecchio lavoro per il quale aveva chiesto un'aspettativa per la politica. Vi chiediamo la scelta opportuna, secondo voi, il ritorno in RAI di Piero Marrazzo. Dovete votare su radio24.it, nell'home page, bianco o nero ci trovate. Già state votando in molti, vi state dividendo, il 54% di voi per ora dice non è opportuna, ma insomma siete vicini al 50-50. Ne parleremo alle 8.30. E adesso andiamo a scoprire che cosa ci offrono i giornali in edicola. In primo piano. Giornali che per la verità in questo martedì 27 aprile non ci offrono, secondo me, tantissimi spunti così curiosi. C'è chi ha scelto il vertice Berlusconi-Putin per aprire, c'è chi la Grecia, vediamo un po'. Il Sole 24 Ore, Merkel, Atene resta nell'euro, insomma il problema della Grecia, di cui si occuperà tra l'altro Oscar Giannino alle 9. SOS Grecia, subito 9 miliardi, così sceglie di aprire Repubblica. Come detto, poi il vertice Berlusconi-Putin per il Corriere della Sera, nucleare, cantieri entro il 2013, nucleare al via in 3 anni anche per il Messaggero. Meglio il nucleare, firma Chicco Testa. In prima pagina sul Riformista c'è sullo sfondo il disastro ambientale da petrolio causato in Louisiana, e Chicco Testa dice, sfruttando quella foto, meglio il nucleare. La politica, vabbè, insomma, forse c'è stata una piccola retromarcia di Fini, chi lo sa. Il Giornale, i finiani, alleiamoci con il PD, mentre Libero, Fini, retromarcia su Roma. L'Unità sceglie Rosarno, schiavisti per bene. La vicenda di Rosarno, alcuni schiavisti veri e propri fermati ieri, arrestati ieri. Per il Fatto Quotidiano un'inchiesta, le piste d'oro di Fiumicino, 3 nuovi tracciati. Per il Leonardo da Vinci c'è il raddoppio di Fiumicino, 10 miliardi, danno ambientale, ma nessuno ne parla. Allora, come detto, Berlusconi e Putin ieri si sono visti a Lesmo, in provincia di Monza. A Villa Gernetto, Enel potrebbe diventare la prima compagnia straniera coinvolta nella costruzione di una centrale nucleare in Russia, così scrive Antonella Scott sul Sole 24 Ore, pagina 5. Berlusconi appunto ha detto entro 3 anni la prima pietra per le centrali nucleari in Italia, anche se la vera sostanza dell'accordo, anche per il Sole 24 Ore, ma non solo, anche per la stampa, è che cosa? Si è parlato soprattutto di South Stream. Che cos'è South Stream? È quell'oleodotto pensato per portare gas russo in Europa attraverso il Mar Nero, escludendo l'Ucraina. Un gasdotto che dovrebbe iniziare nel 2012, completato nel 2015. Eni e Gazprom sono i soci, anche se, scrive Antonella Scott, ora starebbe per entrare anche EDF, la francese EDF, con una quota del 20%. Proprio questo, uno dei nodi che avrebbero anche creato qualche tensione tra Eni e Gazprom, i soci paritari, dati in disaccordo sulle quote, sulla divisione delle quote da cedere a EDF. Su questo Putin non ha detto nulla, però South Stream è il vero progetto che lega in questo momento Italia-Russia, lo si scopre anche a pagina 7 della stampa. Marco Sodano, c'è una cifra da tenere a mente, $70 al barile, tenete a mente questa cifra, perché se il petrolio scendesse sotto questa quotazione sul lungo periodo, i conti pubblici della Russia non starebbero in piedi. La stabilità russa dipende dunque dal petrolio. Ora che il prezzo del barile è vicino agli $80 e in area di sicurezza, il Cremlino si sente dunque forte e getta le basi per espandere la sua egemonia energetica sull'Europa. Ed ecco qui l'analisi di che cos'è South Stream, al quale lavora appunto anche Eni. Lavori che, come ha detto Berlusconi, inizieranno alla prima metà del 2012. Per Putin è essenziale, il gasdotto farà arrivare in Europa il combustibile dell'Asia centrale attraverso il territorio russo. Insomma, non come in passato, quando l'Ucraina ha tenuto un po' i rubinetti aperti o chiusi, ma il rubinetto sarà controllato al Cremlino. Grazie a South Stream non saremo mai al buio e al freddo, ha aggiunto Berlusconi con una certa enfasi. Riguardo l'altro tema, vale a dire quello del nucleare, quello che forse ha più presa anche mediatica, c'è Sergio Rizzo oggi a pagina 3 del Corriere della Sera che lo analizza così. In realtà, governatori in Italia freddi e l'agenzia sul nucleare in ritardo. Una partenza del 2013 che è un obiettivo difficile, per usare un eufemismo. Il nucleare nessuno lo vuole. Parola di Renata Polverini, governatore del Lazio. Non lo voglio io, non lo vuole Roberto Formigoni, ha precisato. Veramente, dice Sergio Rizzo, bisognerebbe dire che anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha detto che la sua regione è autosufficiente. Stefano Caldoro in Campania dice che la sua regione non è adatta a ospitare impianti atomici per il rischio sismico. Uguale motivazione adotta dal neopresidente della Calabria Scopelliti. Contrarissimi ovviamente i governatori, anche per motivi più ideologici, i governatori di centrosinistra. E insomma, chi lo fa questo nucleare? Dove lo mettiamo questo nucleare? Sentite per esempio cosa ha detto sulla Gazzetta del Mezzogiorno Berlusconi 4 giorni prima delle regionali. Lo avevamo ricordato anche in rassegna stampa, se avete buona memoria. Berlusconi ha dichiarato: la Puglia non ha bisogno di una centrale nucleare perché è già autosufficiente energeticamente. E che cosa ha detto alla Nuova Sardegna il 24 gennaio in vista delle elezioni sarde? Siamo nell'ambito della totale disinformazione, non è mai esistita, mai esisterà nessuna ipotesi di centrale nucleare in Sardegna. Insomma, Sergio Rizzo dice: ma dove si fanno allora queste centrali se i governatori non le vogliono? In alcune regioni lo stesso Berlusconi ha detto non si faranno qui. Ecco allora che si è parlato di Montalto di Castro nella Maremma laziale, il delta del Po nei dintorni di Chioggia, qualcuno parla di Caorso da rimettere in funzione. E poi c'è il problema dell'agenzia. Un'agenzia del nucleare che ancora non esiste, doveva essere già operativa da mesi, scrive Sergio Rizzo. In realtà ci sono i veti incrociati sui nomi di chi la deve presiedere. Pare che Veronesi abbia declinato l'offerta, non si trova un accordo sui nomi e, dice Sergio Rizzo, alla fine pare che circoli una lista di 46 aspiranti nel mare magno delle candidature. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, conclude così il suo articolo Sergio Rizzo. L'altro tema del giorno per quel che riguarda l'economia, come detto all'apertura del Sole, è la vicenda della Grecia. Vi rinvio appunto a Oscar Giannino, alle 9 ne parlerà. Il tema è: salvare la Grecia sì o no? E sotto domanda, come salvare la Grecia? Allora, Repubblica dice servono 9 miliardi. Quello che sta succedendo è che la Germania, con Angela Merkel, è l'unico, ma davvero l'unico paese europeo che sta mostrando delle resistenze incredibili. Merkel: alla Grecia più sacrifici, a pagina 3 del Sole. Il salvataggio della Grecia è diventato ormai una partita a poker, scrive Beda Romano da Francoforte, con Angela Merkel che ha assicurato: la Grecia non uscirà assolutamente dalla zona euro. Eppure la Germania insiste: quando tutte le condizioni saranno rispettate, aiuteremo la Grecia. Tanto che Adriana Cerretelli da Bruxelles spiega anche un po' l'imbarazzo, la lotta solitaria della Germania, che fa infuriare letteralmente l'Unione Europea. Pensate che quando è appena sbarcato da Bruxelles il neocorrispondente della Bild, giornale tedesco, appena arriva dice questo: di sicuro la Germania non è la sola a fare resistenza sull'erogazione di aiuti alla Grecia. Quali sono i governi europei dalla sua parte? Chiede a tutti i colleghi. E silenzio imbarazzato, e ribadisce questo giornalista della Bild: ditemi quanti paesi sostengono la Germania. Nessuno, gli ripetono i colleghi europei. Insomma, anzi, che dicono: la Germania sta avendo un comportamento assurdo, incomprensibile. Sibilano nei corridoi di Bruxelles, dove è Angela Merkel al momento la grande delusione. Allora Oscar Giannino ci spiegherà anche perché la Germania ha questa posizione così molto dura sulla questione degli aiuti alla Grecia. A questo proposito, tra l'altro, ci sono anche varie analisi di quelle che sono poi le conseguenze. Per esempio, La Stampa, pagina 2, ci spiega che anche il calcio, il mondo del calcio in Grecia, che è una religione anche lì, un po' come da noi, di questi tempi va malissimo, perché il governo Papandreou ovviamente ha dato un drastico giro di vite alle sovvenzioni di cui godevano le 16 squadre della massima serie. Finita la prassi di pagare in ritardo le tasse, addio alle sanatorie con le quali le società potevano cancellare dai bilanci il 95% del loro debito, via le agevolazioni fiscali sugli stipendi, fine della sponsorizzazione da 40 milioni di euro del Totocalcio ellenico alla Super League. Insomma, le società di calcio sono sotto shock, anche squadre molto quotate come il Panathinaikos, che ha vinto lo scorso scudetto, no, meglio, che ha vinto questo scudetto, ha deciso di dimezzare il monte ingaggi da 20 a 10 milioni per l'anno prossimo e al massimo non si andrà oltre il tetto del milione di euro per calciatore. Beh, insomma, cifre ragguardevoli, ma sappiamo, il mondo del calcio è questo. Anche il mondo del calcio si confronta in Grecia con la crisi in atto. Ma ripeto, alle 9 Oscar Giannino. Oh, dobbiamo affrontare la politica a questo punto. La politica è una di quelle giornate, come sapete ogni tanto capita, francamente di dibattito un po' sterile e noioso, perché tiene banco che cosa? La frenata, cioè Fini ieri ha radunato i suoi fedelissimi e ha giurato fedeltà al PDL. Tanto che, come detto, lo ripeto, il titolo di Libero credo è Fini retromarcia su Roma. Libero titola così: la frenata, la rivolta anti-cav finisce in chiacchiere. Cioè, che è successo? È stato tutto uno scherzo, dallo strappo che sembrava inevitabile a una frenata? C'è questa frase di Berlusconi che ieri nel vertice con Putin ha detto: io non litigo con nessuno, ma per divorziare mi è stato detto da qualcuno che conoscete basta essere in uno. E poi ha anche detto: io sono esperto in tanti settori, urbanistica, editoria, televisione, sport, amministrazione pubblica, non ho invece felici risultati riguardo i matrimoni. Insomma, un Berlusconi anche autoironico che dice, insomma, per divorziare basta uno solo. L'unico elemento un po' di discussione interessante della politica è quello sul governo tecnico. Perché? Perché da Repubblica, pagina 7, sì, nei soliti retroscena, in questo caso firmato da Francesco Bei, insomma, Berlusconi sarebbe preoccupato in realtà di una riedizione del governo Dini del 95, tanto che questo timore è destinato a crescere col passare dei giorni, anche perché, come fa notare un finiano di primo piano, ovviamente mai citati in questi retroscena, tutti sanno che tra pochi giorni si chiuderà la finestra elettorale per votare a primavera, dopodiché parlare di voto anticipato diventerà un'arma scarica. Insomma, il governo tecnico, questo che aleggia come, è un po' come le riforme, no? Ogni tanto in Italia dice vorrei il governo tecnico. Libero si è preso anche la briga di andare a fare i conti sul governo tecnico, lo scenario. Pagina 8, il governo tecnico non ha i numeri, sentenzia Libero. Perché? A Montecitorio la maggioranza è di 316 voti. A sostegno dell'eventuale governo tecnico ci sarebbero il PD, l'IDV, l'UDC, l'API, MPA, Liberal Democratici, minoranze linguistiche, insomma tutti i parlamentari fanno 291, dunque ne mancano 25 alla maggioranza. Ora ci sarebbero i finiani, a questi si dovrebbero sommare i finiani, cioè coloro che del PDL, finiani, andrebbero a sostenere il governo tecnico. A firmare il documento pro Fini erano 38, dunque se si schierassero tutti si raggiungerebbe 329, la maggioranza è 316, dunque la maggioranza ci sarebbe come governo tecnico. Ma, scrive Libero, un conto è mettere una firma su un pezzo di carta, un altro è mettere la faccia su un governissimo. Quanti dei finiani sono disposti a mettere la faccia per un governo tecnico e mettere in minoranza l'attuale maggioranza? Questo è un po' il tema, così se volete divertirvi con la politica poco divertente di quest'oggi è questo. Pagina 8, il PD diviso anche sul Comitato di Liberazione Nazionale, questo è l'altro tema che ha lanciato Bersani, no? Il patto democratico, Bersani ha detto un patto democratico per andare contro Berlusconi, aperto a tutti, anche a Fini, e c'è un'intervista a Deborah Serracchiani del PD, dice: non facciamo il ribaltone che i nostri elettori non capirebbero. Intanto Deborah Serracchiani dice: il PD sparirà se continua così, non può essere Fini a fare opposizione a Berlusconi. E riguardo appunto al imbarcare Fini dice: bah, insomma, ha fatto il suo percorso, ma da qui a dargli credibilità a 360 gradi ci vorrà tempo. Non dimentichiamo il suo passato, l'MSI, la Bossi Fini. Insomma, lei quell'invito a Fini lo avrebbe rivolto fosse stato in Bersani? Ora no, sinceramente. Il patto non esclude Fini, ma per dargli credibilità non dobbiamo considerarlo come uno che ha già saltato il fosso. In primo piano. Su questo tema, governo tecnico o rapporto Finiani opposizione, c'è un'ultima segnalazione dal giornale. Come detto, il giornale titola così: i Finiani, alleiamoci con il PD, prove tecniche di salto della quaglia. Ci si concentra sul giornale su che cosa? Su quello che succede in Sicilia, dove, scrive il condirettore Sallusti, i Finiani preparano il ribaltone, pronti ad allearsi con il PD, lo ha detto in un'intervista a Repubblica ieri il finiano del PDL Fabio Granata, siciliano, pur di non far ritornare Miccichè presidente, insomma, a capo della regione, perché nella regione Sicilia c'è un po' di maretta, insomma, politica. Pur di non far tornare Miccichè, Fabio Granata dice: piuttosto ci alleiamo con il PD per far tenere al potere il governatore lombardo. Vabbè, come detto, c'è molto di, per quel che riguarda la cronaca, di Rosarno. Rosarno, 30 arresti per il caporalato, retata dopo la rivolta degli immigrati. Rosarno è quella località in Calabria dove ci fu la famosa rivolta, anche con scontri molto duri da parte degli immigrati schiavizzati. Ieri una trentina di arresti, 20 aziende agricole sequestrate, Sicilia 200 appezzamenti di terreno per un valore di 10 milioni di euro. Questi numeri di Migrantes, l'inchiesta della procura di Palmi nata a seguito della rivolta di Rosarno. Merita la prima pagina dell'Unità. Come detto, c'è l'arresto di Maria Mangan, una delle persone arrestate a Rosarno, schiavisti per bene, cioè la struttura piramidale era questa: a capo alcuni italiani, sotto alcuni caporali pronti a sfruttare, questi extracomunitari pronti a sfruttare, diciamo, il terzo gradino, lavoratori schiavizzati veramente per 3 euro all'ora. I ras del lavoro nero e quelle vite all'asta per 3 euro l'ora, e Paolo Berizzi che ne parla per esempio a pagina 19 di Repubblica, mentre la lettura di Libero, francamente in questo caso non condivisibile: immigrati schiavi di immigrati, ecco Rosarno, perché? Perché i caporali sono immigrati, ma in questa piramide, insomma, Libero dimentica un po' chi ci sta al vertice, vale a dire degli sfruttatori italiani. Vabbè, l'altro tema di cronaca che ancora trovate sviluppata è quello della strage avvenuta davvero nel Mantovano con Omar Bianchera. Ora c'è il solito annoso dibattito: è facile il porto d'armi? Bisognerebbe dare una stretta sul porto d'armi? Per esempio il Quotidiano Nazionale a pagina 3: troppo facile avere un'arma. Stiamo parlando di Omar Bianchera, quello che ha ucciso 3 persone. L'allarme di funzionari di polizia e medici: ora basta. Questa è un'altra cosa che in Italia si sente sempre: ora basta, fino alla prossima tragedia si sentirà urlare ora basta per 2 giorni, poi ci aggiorneremo alla prossima strage. Era l'unica soluzione, mi spiace solo per i bimbi rimasti senza papà. È Omar Bianchera che parla al suo avvocato. Un Omar Bianchera descritto come una persona svuotata, come se si fosse liberato da un peso che evidentemente lo tenebrava nella testa. Il killer era pronto a fare altre vittime. Aveva in auto 141 proiettili, coi carabinieri che dicono in realtà basta queste chiacchiere di paese. Non avevamo mai ricevuto allarmi concreti su di lui. Anche il sindaco, Giuseppe Adami, il sindaco dice: era uno che faceva qualche dispetto, qualche fastidio alla sua ex moglie, un vicino di casa a cui nessuno prestava attenzione. Cioè, questa descrizione di Rambo armato che girava sparando ovunque il giorno successivo non è che viene molto corroborata da alcune testimonianze. In ogni caso, insomma, c'è stata questa tragedia. Le ultime due segnalazioni conclusive. Allora, la una è quella del nostro sondaggio. Marrazzo. Marrazzo torna in TV e Giancarlo Mazzucca, che è un parlamentare, è stato l'ex direttore del Quotidiano Nazionale, firma come editorialista sempre sul Quotidiano Nazionale, dice: Marrazzo torna in TV, la RAI è severa solo con i mangiagatti, no? La vicenda di Bigazzi, ve la ricordate, quella che ha proposto il gatto in Salmì ed è stato cacciato dalla RAI. Io aggiungo anche, c'è Morgan, no? Per quell'intervista, bandito da Sanremo, basta in RAI. Poi è andato per La Verità, è andato a Porta a Porta, è andato da Santoro. Scrive Mazzucca: non posso non constatare che in Viale Mazzini ci siano due pesi e due misure. Sembra che i vertici RAI stiano per annunciare il grande ritorno di Marrazzo. Per carità, nessun bigottismo. Ma non mi sembra corretto che i vertici RAI si dimostrino severi solo con chi è un debole per i gatti in Salmì. Detto che Mazzucca precisa: io sono un animalista convinto, amo cani e gatti, ancora piango per la scomparsa del mio golden retriever, Scoop. Però insomma, c'è questo tema di Marrazzo? Torna in RAI, è opportuno? L'ultima segnalazione, se volete assicurarvi i pollici, non sto scherzando, se volete assicurarvi i due pollici, non sto parlando di Francesco Totti, no? Quello che ha fatto i pollici su, ma di fate come Fernando Alonso, pagina 25 della Stampa, il campione della Ferrari, si è fatto assicurare dal Banco Santander per 20, no, per quanti soldi? Non si capisce. Due pollici da record. Assicurati dal Banco Santander, fondamentali in gara, però insomma il titolo della Stampa non ci dice per quanto. Ha ricevuto in omaggio, eccolo qua, 10 milioni di euro di assicurazione per assicurare i pollici, che sono fondamentali nel suo mestiere e rappresentano anche un segno distintivo, perché esposti all'insù stanno a significare che tutto è sotto controllo e ben protetto. Alonso, 10 milioni di euro per assicurarsi i due pollici, evviva! Ha battuto Jennifer Lopez, 750 milioni per assicurarsi il culo. Boh, insomma, poi peraltro mai confermata. Comunque, Marrazzo torna in RAI, opportuno o no? Radio24.it, 8:19, eccoci con Deborah Rosciani. Soldi e dintorni. Ecco, più veloce di così io non ce l'ho. Cosa ti sei assicurato tu? No, niente, il raffreddore, ecco, 3 sì, milioni vabbè, di e euro. E su quello stai a posto. Allora, oggi riparliamo del ministro Brunetta, caro il mio Alessandro, il tuo ministro preferito. Certo, certo. Boom in rete per il servizio gratuito di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione e nelle prime ore ieri successive alla presentazione di questo nuovo servizio, di questa rivoluzione che interessa potenzialmente 50 milioni di italiani, tutti maggiorenni in possesso di codice fiscale, sono stati oltre 100.000 i contatti al portale www.postacertificata.gov.it e almeno 15.000, lo dice il Sole 24 Ore questa mattina, i cittadini che hanno completato la procedura di preregistrazione per l'attivazione della PEC. Da oggi i preregistrati potranno recarsi al più vicino ufficio postale abilitato per convalidare la registrazione. Ma a cosa ci servirà tutto questo? Stamattina ce lo spiega Giuseppe Lator, giornalista, collaboratore per il Sole 24 Ore, che ieri ha scritto tutta praticamente la pagina di Affari Privati dedicata a questo argomento. Giuseppe, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Ciao, buongiorno a te e un saluto agli ascoltatori. Allora, la PEC, la posta elettronica certificata, in realtà il sistema delle imprese conosceva già questo servizio, da ieri invece la novità riguarda la pubblica amministrazione. In cosa consiste, Giuseppe? Possiamo dare una sorta di istruzioni per l'uso a tutti coloro che non hanno mai sentito questo acronimo? Sì, possiamo dire che grosso modo il titolo che abbiamo usato lunedì è la descrizione più efficace del sistema, una mail al posto della raccomandata, quindi grosso modo sostituisce quella che era la vecchia raccomandata con ricevuta di ritorno. Si tratta di una posta elettronica normale che attesta e certifica l'invio e la ricezione del messaggio. Quindi in sostanza l'obiettivo di tutto questo impianto avviato nell'ambito della pubblica amministrazione e annunciato appunto ieri dal ministro Brunetta è quello di creare questo canale sicuro per tutte le comunicazioni fra cittadini e pubblica amministrazione, tagliando in modo massiccio sia l'uso della carta sia soprattutto le lunghe code agli sportelli che ci fanno perdere sempre un sacco di tempo. Ieri lo stesso ministro ha impiegato circa 3 minuti per procedere alla registrazione online, c'è una procedura guidata sul sito attivo e poi altri 2 minuti in assenza abbastanza di fila naturalmente per lui, li ha spesi consegnando allo sportello postale per la successiva identificazione copia del proprio codice fiscale e il documento di riconoscimento utilizzato nella procedura telematica. Vogliamo dare le istruzioni anche Giuseppe per poter attivare un indirizzo di posta elettronica certificata? Sì, allora la procedura funziona essenzialmente in due fasi. La prima è online, come hai detto tu, sul sito www.postacertificata.gov.it, e consiste in una registrazione. Ci vengono richiesti dati tra cui il nome, l'indirizzo e il codice fiscale. Completata questa fase, che dura un paio di minuti, bisogna andare in posta almeno 24 ore dopo e fino a un massimo di 3 mesi e presentare il proprio documento di identità e un documento che attesti il codice fiscale, quindi il codice fiscale stesso oppure la tessera sanitaria. Completata questa seconda fase, la casella di posta elettronica certificata sarà attiva e potremo comunicare con le pubbliche amministrazioni. Quindi ci puoi fare qualche esempio? Con quale ufficio pubblico possiamo dialogare magari per chiedere che cosa? Ma allora, un esempio efficace viene da quello che ha fatto il Comune di Roma, per esempio attivando la casella di posta elettronica certificata per tutti quanti i certificati anagrafici. Quindi se il Comune me lo rende possibile, da domani potrò chiedere non so lo stato di famiglia semplicemente da casa, senza far la coda e andare fisicamente all'anagrafe. Certo che questa è una novità assolutamente importante. C'è anche da dire che ancora non tutte le amministrazioni pubbliche, quindi non tutti gli uffici pubblici dialogano ancora completamente tra di loro, per cui magari il meccanismo, prima che si concretizzi in maniera efficace al 100%, forse dovrà passare un po' di tempo, ma è già qualcosa. Detto questo, Giuseppe, il sistema dei professionisti e delle imprese ha già l'obbligo di dotarsi di PEC, di posta elettronica certificata. Noi peraltro ne avevamo parlato in un'altra trasmissione a Salvadanaio, quando abbiamo illustrato ai nostri ascoltatori come da poco tempo si costituisce la cosiddetta impresa in un giorno. I neoimprenditori hanno proprio l'obbligo di dotarsi di PEC per fare in modo che dialoghino tra di loro, per esempio l'INPS piuttosto che l'Agenzia delle Entrate. E quindi prima questa della pubblica amministrazione è una facoltà per il cittadino, un'opportunità, una possibilità, ma non un obbligo come invece è quello per i professionisti. Sì, diciamo che per i professionisti si tratta di un obbligo soltanto in parte, perché c'era un termine il 29 novembre scorso che era, come si dice, ordinatorio, quindi non gli corrisponde una sanzione, quindi non era un obbligo vero e proprio, non era un obbligo vincolante, tant'è che adesso soltanto circa la metà dei professionisti italiani ha una casella di posta elettronica certificata. Però la cosa interessante è che i professionisti, il periodo di sperimentazione che questi hanno fatto, ci danno un po' il senso di come funziona questo sistema, perché per i professionisti è accaduto che dopo un primo periodo nel quale hanno attivato la casella e l'hanno utilizzata con grande frequenza, hanno cominciato a utilizzarla di meno, è calato il numero dei messaggi registrati presso DGTA, presso i loro gestori, perché evidentemente non potevano usarla nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, che in buona parte ancora non hanno questo sistema. Quindi dopo averla sperimentata all'inizio hanno cominciato ad avere un po' di problemi e a lasciare la password, diciamo così, nel cassetto. Quindi insomma questo è probabilmente il prossimo fronte su cui deve implementare i propri sforzi il ministro Brunetta. Un'ultima cosa, Giuseppe, che mi sembra di non trascurabile importanza. Chiaramente abbiamo detto che l'obiettivo di tutta l'operazione è quello di creare questo canale per migliorare le comunicazioni fra cittadini e pubblica amministrazione, tagliando l'uso della carta, le lunghe code agli sportelli. Ma naturalmente, se io vado alla posta devo spedire una raccomandata, sostengo un costo; se ne devo spedire 100 in un anno, sostengo un discreto costo. Con l'eliminazione della coda allo sportello, utilizzando la posta elettronica certificata, quanto risparmio? Perché non è un servizio senza costo. Questo della pubblica amministrazione mi sembra che sia gratuito, ma complessivamente un'attivazione di una PEC comunque ha un costo fisso l'anno. Questo per i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione è completamente gratuito. L'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata varia a seconda del gestore con il quale decido di farlo, però si tratta di un costo minimo nell'ordine di pochi euro, alcuni offrono insomma 5 euro l'anno, quindi si tratta di un costo davvero minimo. E infatti, e quindi siccome poi non dipende dalla quantità o dalla dimensione dei messaggi spediti o ricevuti, chiaramente, come dire, se dobbiamo fare una valutazione solo di costo, è chiaro che la procedura procedura è piuttosto conveniente. Giuseppe, noi non abbiamo altro tempo, dobbiamo dare un'ultima informazione prima di salutarci. Ci siamo dimenticati di qualcosa di importante, secondo te, nell'illustrare questa novità? Guarda, soltanto i due motori di ricerca attraverso i quali si può accedere al database di indirizzo della pubblica amministrazione, che sono www.indicepa.gov.it e www.paginatecpa.gov.it. Benissimo. Che serviranno a tutti per sapere se l'ufficio comunale sotto casa ha o non ha la tecnica. Benissimo, grazie Giuseppe, buona giornata e buon lavoro. Molto del saluto. Ciao, buon lavoro. Allora, Alessandro, eccoci qua, Deborah. Noi oggi ritorniamo a parlare a Salvadanaio di mutui per illustrare alcune novità. Ci sono dei nuovi strumenti per valutare quello più adatto alle nostre esigenze per capire se siamo in grado di poterlo chiedere alla banca, se abbiamo i requisiti reddituali adeguati. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano. Entro 3 anni inizieremo a costruire la prima centrale nucleare in Italia, e quanto ha detto ieri il premier Berlusconi nel vertice italo-russo con Vladimir Putin in Brianza. E sui suoi rapporti con Fini il premier dice: io non litigo con nessuno, ma per divorziare basta uno solo. Soltanto. Riguardo alla situazione politica, anche Fini ieri è tornato a riunire i suoi sostenitori, ha dettato la linea: restare dentro il PDL, leali al governo e alla maggioranza, ma liberi di fare proposte costruttive. Per il calcio stasera ci sarà il ritorno della prima semifinale di Champions League, Lione-Bayern Monaco, all'andata finì 1-0 per i tedeschi. Eccoci allora alle 8:33 minuti, parliamo di Piero Marrazzo, l'ex governatore del Lazio, pronto, così si legge ai giornali, a tornare in Rai. Vi chiediamo nel nostro sondaggio, che dovete votare su radio24.it, vi sembra una scelta opportuna il ritorno alla Rai di Piero Marrazzo? Ricordiamo, ritorno alla Rai perché aveva chiesto un'aspettativa, è sempre stato un giornalista della Rai. Il nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, devo dire che già in molti state votando, prevalgono i no per il con il 66% per ora, o anzi il 68%, non sembra opportuno ritorno in Rai. Intanto voglio salutare Paolo Granzotto, buongiorno, ben ritrovato Paolo Granzotto sul giornale. Buongiorno. Anche una rubrica di lettere di lettori, arrivano lettere di lettori su questo tema che si pongono il problema: Marrazzo sì, Marrazzo no in Rai? Certamente. Buongiorno a tutti innanzitutto. Certo, molte lettere di molti lettori che insomma sono piuttosto perplessi, se non addirittura esprimono un giudizio negativo per il ritorno di Marrazzo alla Rai, proprio così. E perché? Cioè, che cosa dà fastidio al fatto che torni a fare il suo lavoro? Diciamo, visto che l'agonia pubblica no, qualcosa no. Deve tornare a fare, perché sì. Non dovrebbe tornare in Rai? Sì, adesso i lettori dicono che insomma il suo comportamento anche arrogante, diciamo, si recava i festini, ad esempio, questo ha fatto molto colpo, si recava i festini con l'auto blu e l'autista della regione, questo ha fatto molto colpo sui lettori, l'uso della droga con notevoli spese, ecco, non è un buon esempio e tutti preferirebbero che lui non tornasse alla Rai. Naturalmente nessuno si pone il problema che non fu diritto tornare alla Rai, perché in effetti lui è in aspettativa, quindi sarebbe difficile togliergli anche il lavoro, ma sicuramente la Rai, ecco, la cosa da non fare e che mi sembra un po' serpeggi dall'altra parte della barricata è di farlo passare per eroe, per vittima di un complotto naturalmente antidemocratico. Questo qui sarebbe no, perché lui è vittima più che altro di se stesso, dei suoi gusti e dei suoi vizi. Questo tentativo di farlo passare per una specie di eroe irrita ancora di più l'opinione pubblica, anche se la Cassazione ha stabilito che non c'è alcuna rilevanza penale, insomma, che è stato vittima di almeno questo sì, di un'imboscata, se si può dire così. Tra l'altro, chi aveva sostenuto, io ricordo, l'abbiamo richiamata anche per questo, Vladi Luxuria, buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno. Già all'epoca della vicenda Marrazzo, io ricordo che lei proprio a questi microfoni disse: a me questi carabinieri, questa vicenda, insomma, vabbè, ma non dobbiamo ricostruire. Il dato di fatto è che adesso Marrazzo è stato giudicato penalmente, non niente è stato a rilevare ai suoi confronti. Però questo ritorno in Rai, come lo vede? Deve anche tornare in Rai? Ha sentito Granzotto, dice, ma insomma non è stato però un bel esempio, ecco, Marrazzo. Io penso che un giornalista serio dovrebbe dire la verità e attenersi al pronunciamento definitivo della Cassazione e spiegare se un lettore scrive ancora dell'auto blu che in questa sentenza è stato escluso il peculato d'uso. Quindi Marrazzo è stato assolto dall'accusa di aver usato l'auto blu per motivi personali e che invece bisognerebbe essere molto più allarmati dal fatto che Marrazzo sia stato vittima di una trappola, di un'imboscata e che gli unici travestiti di questa storia sono stati quei carabinieri che hanno offeso la divisa, che hanno indossato tanti poliziotti, che hanno perso anche la vita per combattere contro la delinquenza e che invece queste persone hanno organizzato una trappola semplicemente per incastrare e per rovinare la carriera comunque al Presidente della Regione, che è stato l'unica persona pubblica, politica, che coinvolta in uno scandalo sessuale si è dimesso, non si è ripresentato come Presidente della Regione. Poi per quello che riguarda il ritorno di Marrazzo in Rai, o si cambiano le leggi sull'aspettativa sul lavoro, quindi o si cambiano i contratti collettivi di lavoro, ma questo deve valere per tutti, per i professori, per i ricercatori universitari, per i magistrati. Però qualcuno ha fatto notare, Luxuria, Morgan ha fatto quell'intervista bandito dalla Rai, quello che ha detto facciamo il gatto in Salmì e con le tante polemiche è stato bandito dalla Rai, anche quelli sono comportamenti che penalmente, no, quello del gatto in Salmì per carità è un reato penale, diciamolo tre volte, sennò poi ci subissano di mail. Però anche lì, insomma, che comportamenti sono stati? Per alcune frasi dette sono stati banditi, insomma, dalla Rai. Ma infatti anch'io, essendo una persona coerente, in tutte le dichiarazioni che ho fatto mi è sembrata anche un po' esagerata la reazione nei confronti di Morgan, che è vero che ha sbagliato, perché il passaggio che è stato incriminato della frase di Morgan è stato quando ha detto che per lui l'uso della cocaina era qualcosa che lo aiutava, però in tante interviste successive lui ha chiesto scusa e quindi sinceramente mi sembra un atteggiamento un po' eccessivo questa censura così severa di cui sono stati vittime tantissimi personaggi della televisione che poi vengono rimpianti dopo. Voglio ricordare che persino Raimondo Vianello, che poi tutti abbiamo pianto al funerale, è stato anche lui vittima della censura della Rai, semplicemente perché fece uno sketch con Ricky Tognazzi in cui prendeva in giro Ronchi, l'ex presidente del governo italiano. Quindi andiamoci un po' piano, perché io quando sento parlare di censura mi vengono i brividi. Tutti possiamo sbagliare, Marrazzo ha sbagliato non come uomo, ha sbagliato come marito e di questo ne deve rendere conto alla famiglia, ma da qui a dare una gogna, un ergastolo mediatico a Marrazzo e pensare che sia una persona indegna di ripresentarsi, tra l'altro neanche sullo schermo, perché si sta parlando di un Marrazzo come caporedattore. Andiamoci davvero piano, allora, altrimenti... Questo che sarà in Rai adesso si dovrà capire. Forse andrà da Lucia Annunziata in mezz'ora, domenica, a fare un'intervista. Questo almeno si è detto ieri su Repubblica a trattare. Non so, io intanto voglio salutare, anche perché vi sta ascoltando, Esterino Montino, buongiorno. Buongiorno. Che è consigliere regionale del PD, è stato vicepresidente ed è stato poi colui che insomma ha assunto la delega alla presidenza della Regione Lazio quando Marrazzo si è dimesso. Lei tra l'altro so che lo sente, ecco, anche qui non vogliamo, per carità, però di questa vicenda ci può dire qualcosa? Ha sentito Marrazzo ultimamente, insomma, non è forse la prima preoccupazione che ha, o sì? No, sì, non l'ho sentito, ma insomma adesso mi pare che abbia recuperato dopo quello che è successo, dopo l'impatto avuto. Qui bisogna sempre tener conto, e su questo la Cassazione ha detto la parola fine, che Marrazzo, stiamo parlando di una persona che non è indagata, è un testimone, quindi è un teste che poi tra l'altro è persona lesa. Quindi sotto questo aspetto siamo di fronte a una persona che certo può essere condannabile sotto l'aspetto della critica, sotto l'aspetto morale, ma questo rientra nella sfera squisitamente personale. Poi tra l'altro questo suo fatto l'ha pagato e l'ha pagato duramente. Penso che in politica pochi esempi noi abbiamo di questa natura, ben altre cose possono essere sicuramente condannabili, ma che non si riscontrano atteggiamenti ed atti così forti, così chiari come quelli di Piero Marrazzo. Ora, fare una discussione su tornare o meno in Rai o essere contrari, ma qui siamo dentro una sfera completamente diversa, anche quella di tipo personale. Ci sono delle leggi, ci sono dei contratti, c'è un'aspettativa per motivi istituzionali. No, ma che dal punto di vista legale sia tutto legittimo, questo anche Granzotto l'ha detto, perché... voglio dire, non, cioè nessuno mette in discussione il diritto a tornare, si tratta di capire se sia opportuno dopo la vicenda che è stata, insomma. Qualcuno ci dice, ve lo vedete, non so, in video, anche se poi probabilmente non andrà in video a parlare di problemi della pubblica amministrazione o piuttosto come faceva prima. Ma opportuno rispetto a cosa? Non stiamo parlando di un mafioso, non stiamo parlando di una persona che ha fatto non so quale terribile atto giudiziario. Stiamo parlando di una persona che appunto è stato raggirato, dove c'è stata un'irruzione, fotografato, e tra l'altro fotografato pure da persone che ancora stanno dentro, quelli sì stanno dentro, sì. Stanno ancora in galera, con vari passaggi anche di carattere giudiziario che confermano la loro stato restrittivo, e a questo punto non si capisce per quale motivo questa persona, che naturalmente è condannabile per ognuno di noi, sì, ma poi ognuno si farà il suo giudizio, però dice perché dovrebbe scontare anche questa cosa. Vediamo, sentiamo qualche ascoltatore, ci stanno chiamando in molti all'800 24 00 24, perché poi su questo tema c'è molta sensibilità. Poi tornerò anche da Paolo Granzotto. Armando da Verona, buongiorno Armando, che pensa lei? Sì. Buongiorno a tutti, buongiorno anche se sì. No, niente, io sarei contrario, però adesso come è stata posta un po' la domanda, forse ho sentito, se non sbaglio, che non dovrebbe sembra apparire. Sì, questo per lei fa differenza, cioè non sì, lavora sì, ma sì, non appare. Esatto, secondo me fa differenza. Di priori sarei stato il contrario. E perché? Che effetto le fa se vede Marrazzo in video? Perché sarebbe troppo presto, fatti accaduti troppo recente, c'è ancora indagini in corso e tutto. Ma no, lui è stato assolto, questo lo chiaramente... è stato assolto, però non è stata ancora definita al 100% secondo me. E allora sarebbe un po' presto, però se c'è anche qualche imputato in, certo, Parlamento, c'è qualche condannato, sì, esatto, in Parlamento, insomma, sì, esatto, quelli addirittura imputati e condannati, insomma, li vediamo tutti i giorni in TV. Però ecco, se discorso invece dici ma lavora retro, dietro le quinte, potrebbe anche, va bene, lo potrebbe accettare così. Sentiamo Enrico da Roma, prima nel traffico. Enrico, pronto? C'è un cane dietro che abbaia, Enrico, dica. Sì. Senta, io volevo porre una domanda agli ospiti. Non credete che vi sia un finto moralismo per il rientro di Marrazzo in televisione, visto che negli ultimi tempi anche in televisione sono passati personaggi molto discutibili? Grazie. Va bene. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Qualcuno ci dice anche Aldo Busi, vi siete dimenticati, anche lui bandito dalla Rai. Allora, Granzotto, lei è in maggioranza rispetto ai nostri ascoltatori, perché il 67% dice non è opportuno, però qui è in minoranza, c'è Vladi Luxuria, c'è Stellino Montino. L'ascoltatore ha sentito che ha detto sono ben altri personaggi inquietanti passati in TV. Certamente, no, ma infatti questo qui è il ragionamento. Vorrei rispondere un momento a Luxuria, che è persona seria, al contrario di me. Luxuria dice che è stata vittima di un'imboscata. E vabbè, con questo. Non è che l'imboscata cancella, stempera il giudizio morale sulle sue notti brave a barre di cocaina, eccetera. Poi dice, si è dimesso, caso unico. E cosa vuol dire? Luxuria non si chiede il perché si è dimesso, perché quella scelta. forse per la consapevolezza di averla fatta grossa, soprattutto per un politico, una carica istituzionale. E se c'è sempre questo tentativo di farne una vittima di una macchinazione, una vittima di qualche cosa, ma insomma, da che mondo è mondo, chi sbaglia paga. Lui ha pagato, non ha commesso alcun reato, sia chiaro. E non ha pagato già abbastanza dimettendosi, per l'appunto, cioè sì, ma perché, ecco, ma Luciola non si chiede perché si è dimesso, gliela imposto qualcuno o è stata una sua scelta. Uno che si dimette accetta di ammettere di aver commesso qualcosa, insomma, che non va troppo bene. E imboscata, indipendentemente dall'imboscata. Luxuria, su questo vuole replicare? Cioè, l'imboscata c'è stata, accertata, carabinieri sono in carcere, dovranno rispondere ovviamente di accuse anche pesanti, e però il fatto c'è, il fatto per il quale molte persone, molti italiani si sono scandalizzati, è inutile negarlo. Intanto, ripeto, si è dimesso, quindi voglio ricordare, lui ha pagato. Per una persona che fa politica, che è presidente di una regione, troncare con la politica è già un voler pagare uno sbaglio che ha fatto, ripeto, come marito, anche sulla questione della cocaina, e quindi lui lo ha fatto. E secondo me c'è un limite che non bisogna oltrepassare tra quella che è la giustizia e quello che è l'infierire. Adesso secondo me si sta passando nella fase. Potete dare un po' più di audio? Quando non era stato c'è stato lo scandalo Marrazzo, tutti cercavano Marrazzo nei talk show, ma è stato Marrazzo che non ci è mai voluto andare, perché lui ha voluto aspettare l'indagine in corso e solo dopo il pronunciamento definitivo della Cassazione ha parlato. Allora io voglio fare un paragone con un altro caso, Lapo Elkan è stato anche lui una persona, è vero, non fa parte della politica, fa parte del mondo dell'imprenditoria, anche lui è stata una persona che è stata coinvolta in uno scandalo a base di trans, certo, e cocaina, eppure io spesso ho visto Lapo Elkan in video che ci ha messo la faccia per parlare di altro. Allora attenzione. Però non pensa che il ruolo sia dirimente la situazione, cioè voglio dire, non è il presidente appunto della regione, non ha un ruolo istituzionale, un ruolo amministrativo, un ruolo... Ma infatti Marrazzo non si ripresenterebbe in Rai eventualmente mettendoci la faccia da uomo politico, ma da professionista, da giornalista. Sentiamo altri due ascoltatori che ne pensano. Angelo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, per me la questione è semplice. Marrazzo nella sua vita privata può fare assolutamente quello che vuole. Sì. Il problema è che Marrazzo è venuto in video e ha mentito spudoratamente a tutti quanti, dicendo che lui non c'entrava niente, non sapeva niente, era un attacco personale. Ora, quella è stata, si riferisce a che cosa? Alla prima dichiarazione che esatto, gli ha fatto le prime dichiarazioni di Marrazzo. Più che in video, a Repubblica intervistato. Sì, le ha fatte, io adesso non posso indicare dove le abbia fatte. Non crede che ci sia stato, non lo sto giustificando, ma non crede che in quel momento gli hanno detto guardi che sembra che ci sia un video che circola, guardi, e lui ha smentito, guardi, lui insomma, che deve fare? Io capisco che lui sia stato raggirato, lui sapeva benissimo cosa era successo, il problema è che è venuto in video e ha mentito spudoratamente agli italiani. Questo, mi scusi Angelo, per correttezza, giusto per ricostruire, quando ci fu quell'intervista gli hanno detto guardi che sembra che circoli un video su di lei, e lui ha detto ma no, ma per carità. Poi quando invece è uscita la notizia ha fatto un'unica intervista a Repubblica nella quale raccontava Repubblica in lacrime, ha ammesso tutto, cioè magari è stata la disperazione. No, mi dispiace. Prima lui ha detto. Quello che ho detto, è quello niente. Che ho detto io. Probabilmente è stato un disperato tentativo di negare alla fine. Però ha mentito. Il fatto solo che abbia mentito, tornare a fare il giornalista in Rai, sì, questo mi non lascia perplesso. No, non è che non va bene, mi lascia perplesso, perché è vero che tutti quanti mentiamo e tutti quanti probabilmente agiamo nel nostro interesse, ma sta di fatto che lui va a ricoprire poi una carica dove, che sia in video che non sia in video, ha a che fare con il pubblico. Io, a me rimane il dubbio, nel bene o nel male, che poi possa strumentalizzare, essere strumentalizzato comunque, per cui non è più adatto a fare quel lavoro, va a fare qualche altra cosa. Grazie Angelo. Marco, glielo troviamo noi il lavoro a Marrazzo. Marco, della provincia di Treviso, buongiorno. Ah, buongiorno.